Va verso i 6 mesi la nostra nipotina Veronica ed è bello seguirne i progressi giorno per giorno. Gli occhi si sono fatti sguardo, il faccino fa le sue prime espressioni e quando non ritiene assolutamente impellente urlare come un'aquila, per esempio ad uno dei suoi molteplici risvegli del mattino, sorride a chi è lì davanti a lei ad accoglierla con un sorriso e con un tono di voce addolcito. Sta costruendosi un primo prontuario di categorie. Dopo la pancia piena e la pancia vuota, dopo il caldo condiviso del corpo della sua mamma e il freddo isolato della carrozzina, Veronica sta costituendosi la persistenza e la continuità di oggetti e persone con cui si trova ad interagire. Sta imparando a discriminare fra ciò che si muove per conto proprio e che conseguentemente, quando gli gira, sparisce e riappare alla sua percezione. Ciò che tetragono poi non si muove affatto, e sta imparando anche a discriminare ciò che può addirittura essere mosso da lei stessa con manine feroci ed unghiute, prensili e plasmanti, con le quali per il momento elabora e rielabora la faccia di chi le capita a tiro. Un abbaio, un suono, una canzone, il ritmo di un suo biberon picchiato sul ricco proscenio del suo seggiolone la attraggono e la coinvolgono per qualche istante, come la televisione accesa. Si volta, focalizza i suoi occhioni, processa la vicenda, nota che tutta questa gente che si dà tanto da fare intorno a lei accompagna che sia con qualche vocalizzo ricorrente e mette via, categoria dopo categoria, come fieno in cascina per domani. Allorché Richard Dawkins inizia a riflettere sui virus della mente, dice di averci al fianco una bella bambina di 6 anni che definisce come la pupilla degli occhi di suo padre. Questa bambina però gli dice di credere in Babbo Natale, gli dice che da grande vuole diventare la fata dei dentini e si fida ciecamente della solenne parola dei rispettabili adulti. Se costoro le parleranno di rosse streghe pestifere che trasformano i principi di Forza Italia in rospi, o le garantiranno che i bambini cattivi bruceranno per l'eternità nelle fiamme dell'inferno, questa bella bambina lo crederà. E Dawkins, questo lo dice non con il distacco tipico di chi scrive un saggio scientifico, ma lo dice con la particolare amarezza di chi ha appena scoperto che, alla faccia di quel padre che l'adora, senza che questi possa fare alcunché per impedirlo, questa bambina è appena stata iscritta ad un corso di catechismo cattolico. Che possibilità ha? Si chiede Dawkins. Una bambina, si dice, è modellata dall'evoluzione per assorbire la cultura della sua gente. Prima che raggiunga metà della sua taglia di adulta, questa bambina sarà investita da un enorme dizionario di parole da pronunciare, in concomitanza con un innumerevole insieme di situazioni in cui pronunciarle, nonché da tutta una gamma di regole semantiche e sintattiche, da una sterminata enciclopedia di informazioni. Cervelli più sviluppati del suo provvederanno alla bisogna senza che lei possa farci un granché. Da ciò, tramite un'analogia molto incisiva, tanto da far male, Dawkins giunge ad una conclusione che da padri e da madri, da parenti, da insegnanti, da estranei, da esseri umani in genere mai dovremmo dimenticare. Come malati immunodeficienti, i bambini sono totalmente esposti a infezioni mentali che gli adulti sono invece in grado di spazzare via senza alcuno sforzo. L'affermazione ovviamente pecca di ottimismo perché sappiamo benissimo che anche gli adulti sono spesso preda del primo cialtrone che passa e soprattutto se si fa loro constatare che sono in tanti a crederci, sono pronti a credere a che sia. Ma per quel che concerne il suo lato pessimistico è ineccepibile. E untori, allora, lo siamo tutti. Nel settembre del 1999 avevo seguito con una certa apprensione le notizie concernenti Greg Smith, un ragazzino che a 10 anni risultava già iscritto all'Università della Virginia per conseguirvi il dottorato prima in scienze politiche, poi in ingegneria biomedica e già che c'era anche quello in ingegneria aerospaziale. 3 dottorati che gli sarebbero serviti, a quanto dichiarava alla stampa all'epoca, per realizzare i 3 sogni della sua vita: essere eletto presidente degli Stati Uniti d'America, colonizzare lo spazio e trovare una cura per l'AIDS, già che c'era anche per il cancro. Circolava anche la sua fotografia mentre se ne usciva dall'università con la sua zazzera bionda davanti a tipici studenti universitari americani d'amboi sesso che battuti su quell'unico terreno ideologico al quale vengono educati, che è la competitività, lo seguono con rispetto e deferenza. Poi di Greg non ho più saputo niente. All'incirca un mese fa, invece, il 19 marzo del 2005, abbiamo avuto notizia di un suo collega, Brandon Brenner. Alfabeto a 18 mesi, pianoforte a 3 anni, fa il liceo a 6 anni, l'università a 10. Gli psicologi avevano spiegato ai genitori che sarebbe stato sbagliato imporre ad un genio di questa levatura una falsa normalità di bambino qualunque. Che con un 178 di quoziente di intelligenza già raggiunto a 5 anni, 178, già 28 punti in più del necessario per essere classificato come un genio, con un 178 sarebbe stato uno spreco ingiustificabile fargli condurre una vita che avesse appena qualcosa a che fare con quella dei suoi coetanei. Salvato da questi anonimi destini, dunque, Brandon ha 14 anni. Era questa la notizia. Si è ammazzato. Dal punto di vista di Dawkins, virus mentale per virus mentale, no? Credo che sia arduo stabilire se a qualcuno può far più male il catechismo cattolico o la meccanica quantistica, l'iscrizione alla bocciofila sotto casa o l'arruolamento della legione straniera, la raccolta dei francobolli o la lettura del Mein Kampf di Adolf Hitler. Dal mio punto di vista fa male alla vita dell'individuo come alla vita sociale cui l'individuo partecipa, fa male, molto male, tutto quello che ci viene propinato come avvalorato di per sé e dunque trascendente la consapevolezza di chi vivendolo lo fa suo. Non tutte le teorie, non tutte le storie sono virus ugualmente letali, ma quelle incoerenti lo sono di più. Pietà umana vorrebbe che, non potendo contare su un sistema immunitario delle idee precostituite e non potendo evitare di trasmettere il virus, al contempo si trasmettesse anche l'antivirus. Ma per far ciò occorre innanzitutto rendersi conto che noi stessi, ciascuno di noi e non solamente l'altro, è ineluttabilmente infettivo. Categoria dopo categoria, allora Veronica sta cominciando a negoziarsi il proprio mondo ed un modo per conviverci. È alle prese con una combinatoria sterminata di elementi ed io, vegliando, la osservo. Ma se se per caso uno dei prossimi giorni mi dovessi accorgere, che so, di un suo risultato appena fuori dell'ordinario, non dico da 178 di quoziente di intelligenza, ma anche di 17,8, beh, me lo terrò gelosamente per me, perché al massimo, ecco, per la gioia di una condivisione, lo dico a chi so io, a qualcuno che l'ama tanto da saperne mantenere il segreto.